Bantano ha rappresentato la risposta più visibile e contemporaneamente la più illegale delle politiche statunitensi della guerra al terrore dal 2001 in avanti, tra rendition, detenzione a tempo indeterminato, torture. Guantanamo è diventato un po' l'esempio più evidente di questo scempio però dell'architettura dei diritti umani. Dal punto di vista dell'obiettivo di rendere giustizia alle vittime degli attacchi dell'11 settembre, è stato un fallimento completo, perché le leggi ordinarie statunitensi hanno funzionato molto meglio, mentre a Guantanamo le commissioni militari che hanno portato avanti i processi iniqui hanno condannato 8 persone e ne stanno processando altre 10. E su 780 detenuti che sono passati a Guantanamo ne rimangono 41, il che vuol dire che oltre il 90% di quelli che vi sono transitati non avevano motivo per starci. Non ci sono prospettive di chiuderla, e addirittura per diversi di questi 41 non c'è neanche in vista una formalità dell'accusa, tantomeno un processo. Bush si vantò, rivendicò il fatto che all'interno avvenissero torture che avvenivano anche grazie alla complicità di medici e psicologi. Sì, Guantanamo è stato purtroppo anche un passo avanti sul piano della tortura, dell'efficacia della tortura, perché tutto questo gruppo di esperti nel campo legale, nel campo medico, nel campo psicologico avevano per obiettivo quello di individuare i cosiddetti punti deboli del nemico, qualificando dunque i prigionieri come nemici, e dunque si accanivano sulla loro religione, su alcuni precetti morali, il tutto poi cercando di dimostrare che non si trattava di torture ma si trattava di altro, dunque evitando di essere incriminati. Bush ha rivendicato tutto questo, nelle sue memorie ha scritto che lui personalmente ordinò il waterboarding, cioè il semiannegamento dei detenuti, e per questo motivo insomma noi ogni volta che andava in giro a presentare questo libro di memorie chiedevamo al paese in cui era ospitato di arrestarlo. Obama aveva annunciato di voler chiudere la struttura, è una promessa non mantenuta, ma cos'è cambiato con l'arrivo di Trump? Beh, con Trump semplicemente il discorso non si è più posto, quindi non è all'ordine del giorno di chiudere Guantanamo. Obama ha la responsabilità di aver fatto una promessa non mantenuta, si è appellato ogni volta all'ostilità del Congresso, però lui aveva il potere con un ordine esecutivo di chiudere Guantanamo. Noi ci aspettavamo che alla fine del suo secondo mandato pigliasse questa decisione, ha la responsabilità di non averlo fatto e di aver consegnato questo tema a Trump, che è evidente che non ha alcuna sensibilità per i temi connessi alla difesa dei diritti umani. E proprio oggi la notizia che 11 dei detenuti appunto che sono presenti a Guantanamo hanno fatto causa al presidente Donald Trump, accusandolo sostanzialmente di islamofobia. Ricordiamo che queste persone sono detenute, come già ricordavi prima, senza nemmeno un capo di imputazione o un processo in vista. Sì, è una delle tattiche, delle strategie legali per cercare di far sì che prosegua la detenzione a tempo indeterminato e senza accusa nel processo, che è un fatto di per sé illegale. Infatti nella denuncia viene citata una dichiarazione di Trump sul fatto che i prigionieri che tuttora si trovano a Guantanamo non dovrebbero mai venire rilasciati. In più è evidente che c'è questo tema dell'islamofobia che è presente già dalla campagna elettorale di Trump, quindi l'una cosa e l'altra sono l'oggetto di questa denuncia. Trump sta facendo discutere anche per sue dichiarazioni razziste nei confronti di paesi in giro per il mondo, da Haiti al Salvador all'Africa, con espressioni anche truci. Insomma, è un po', rappresenta un po' un pericolo per la stabilità del mondo, verrebbe da dire. Sì, se pensiamo che una delle figure politiche che ha più potere al mondo si esprime con questo linguaggio che è offensivo, razzista, e lo fa con disinvoltura, come se fosse un qualunque troll di Twitter, è veramente preoccupante. Ci si aspetterebbe da un leader, quale il suo ufficio dovrebbe contenere e rappresentare, un atteggiamento diverso. Qui siamo in un completo travisamento del ruolo istituzionale che dovrebbe avere un presidente, linguaggio infiammatorio, divisivo, accanimento nei confronti di alcuni gruppi, e quindi è un pericolo per i diritti umani, non c'è dubbio.